Dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. Da gennaio a giugno il mio obiettivo è il campionato. Io sono arrivato per arrivare primo. Ovviamente poi se arriviamo secondi e terzi va bene, però io punto per arrivare primo, mai secondo, mai terzo. What's this? Non è come dirlo, no. Diciamolo, cioè uno può dire tutto quel che si vuole, sì, arrivo primo, ma non è come dirlo, è come anche dire, non so, adesso c'è una punizione per la Fiorentina, sì, che sta già vincendo 2-0 contro la Lazio. Esatto, allora però... la palla da una parte e Marchetti dall'altra, di solito funziona arriva così. La punizia, lo stesso. No, la punizia, quella è la punizia? Sì, quella è la punizia. Ah, io pensavo fosse arrivato uno e ho detto, dai via, tiriamolo via lontano la palla che ci dà fastidio, no, insomma. No. Non ha urlato viva il parroco, no, palla mandata in curva, assolutamente. E quello l'abbiamo dato, il primo risultato l'abbiamo dato, abbiamo il secondo risultato, che Bologna è un po', sì, con calma, cioè non è che vuoi dirlo così, pensa a tutti gli interisti in Italia. Infatti io sto dicendo, il Bologna gioca a San Siro con l'Inter. Beh sì, esatto. Beh, non piove, cosa che invece sta accadendo copiosamente a Roma, sì. No? In questo caso qua l'Inter ha la maglia nero-azzurra come sempre, sì, però c'ha il marchettino. Che marchettino? Questa sera c'ha il marchettino, perché ieri era il compleanno, 105 anni, auguri Inter, 105 anni, certo. Di Inter, quindi c'ha la pecettina sulla maglia, Orologio, Milano, esatto. Quelle cose lì, no? Cioè, il capitano è Zanetti dell'Inter stasera, quindi diciamo questo è orgoglio e orgoglio nero-azzurro, esatto. No? C'ha la maglia nero-azzurro, particolare, perché Zanetti 600 partite, sì, eccetera, bisogna eccetera. Festeggiare queste cose qua. Risultato, Bologna. Perché legarsi ai vecchi schemi? Parliamo delle cose, cioè c'è, sì, la maglia, no. C'è, ma inutile. Pensavo che già dicessi altre cose. No. Diciamo questo, di fatto 0-1. Il Bologna ha segnato con Gilardino, un lancio dalla tre quarti di Perez che ha scavalcato tutta la difesa. Gilardino è entrato in una specie di sgambata col destro e ha fregato il povero Carrizo che questa sera è, sì, in mezzo ai pali di San Siro. Sono momenti, momenti tristi e sono momenti difficili. Beh, adesso qua ovviamente nero azzurri di tutto il mondo esprimetevi soprattutto, esprimetevi. Vediamo l'824-0024 824-0024 se volete esprimervi proprio direttamente con la telefonata via dicendo, oppure 349-238-6666 349-238-6666 e ancora, però mamma mia, che una cosa incredibile, che cosa è successo, nel senso che Andanovic ha sbucato, no, era il portiere, sì, ovviamente del Bologna, che ha bucato proprio la palla, proprio l'ha sbucciata, l'ha buttata via in questo era Curci, esatto, ecco, questo nel frattempo caso. Contropiede del Bologna, l'Inter è un po' sbilanciata perché era tutti avanti in questo momento perché sta perdendo 1-0, ricordiamo che è entrato Cassano e pochi istanti fa è entrato anche Cambiasso nell'Inter, sì, per cercare, certo, di recuperare. Kovacic ha sostituito Stankovic che aveva iniziato la partita, però il risultato è sempre 1-0. Adesso... Palacio sta un po' innervosendo, però scusa, noi abbiamo mandato lì il nostro Cancellara, no, in questo caso proprio davanti allo stadio, vediamo, sì, un attimo com'è già il clima. È già lì? Mi sa di sì, immagino che sia già da quelle parti, no, ma poi soprattutto quanta gente poi se ne sarà già andata. No, adesso è presto, dai, siamo a metà del secondo tu dici tempo. Che sono rimasti? Dai. Non lo so, comunque scusa, pronto? Luca? Buonasera, eccomi qui. Ah, eccoti, ecco Luca. Sto raggiungendo lo stadio, ho visto i fari da lontano, mi mancano direi un 200-300 metri per arrivare. Sì, diciamo strada deserta. Confermo che non c'è nessuno, quindi le opzioni sono due, o non c'è nessuno dentro allo stadio oppure sono già andati a casa. No, sono tutti dentro. Circostanze sono deserte. Guarda che comunque non c'è moltissima gente, perché stiamo guardando spalti non necessariamente pieni, quelli che si vedono, però qui stiamo parlando di Roma. Questo caso, e lì è giustificato perché è arrivato giù un diluvio oggi pomeriggio, mentre invece qui tutto sommato non piove, anzi oggi c'era il sole, ovviamente, anche perché diciamolo, c'era dai vai tutto il giorno chiusi dentro. E quindi bisogna avere classico un appuntamento con la giornata di sole nel momento in cui dai vai qui vai a Milano che si destreggiava. Come vedi, stiamo temporeggiando e ti diciamo che nel nostro temporeggiamento facciamo entrare dentro anche Mauri al posto di Ledesma, e questo potrebbe in qualche modo darti il là per poter raggiungere San Siro. Non l'hai ancora raggiunto? No, ho anche accelerato il passo, infatti non so se notate il mio fiatone un po'. Scusa, vabbè, dai, allora stai lì, ti teniamo lì in linea, nel momento opportuno ti tiriamo su nel frattempo noi andiamo a vedere che cosa sta accadendo, perché l'Inter sta facendo il possibile per andare al pareggio, poi sappiamo, no, che cosa succede, poi comunque l'Inter poi dopo ce la fa, no? No. Come no? No, vabbè, ce l'ha fatta domenica, ma non è mica sempre domenica. Cioè... Come non è sempre domenica? Anche oggi è domenica, anzi, forse non era domenica prima, esatto. In questo caso niente, calcio d'angolo per l'Inter, le manone di Curci prendono il pallone, se lo aggrappa, se lo mette vicino al petto, se lo abbraccia. Nel frattempo possiamo cominciare a dare per tutti quelli che oggi per esempio sono stati in giro e non hanno potuto seguire quello che è accaduto sui campi, i risultati di oggi, con poi successivamente per quelli legati al fantacalcio andiamo a dargli anche quelle notizie, insomma, per il momento. Allora, oggi a mezzogiorno e mezzo l'Atalanta ha battuto il Pescara per 2-1, il Cagliari poi nel pomeriggio, le partite del pomeriggio, Cagliari-Sampdoria 3-1, Chievo-Napoli 2-0, questa è una delle sorprese della giornata, Juventus-Catania 1-0, il Siena ha vinto a Palermo per 2-1, il Parma ha travolto il Torino per 4-1, in questo momento, come abbiamo detto, le due partite, due posticipi, con la Fiorentina che vince 2-0 con la Lazio e il Bologna che sta vincendo 1-0 con l'Inter, un tiro in questo momento dalla destra di Guarin, proprio una sciabolata dalla destra con Curci che para in calcio d'angolo, proprio l'assalto dell'Inter, se per caso il Bologna riesce a recuperare palla nella tre quarti come adesso, gli fa un contropiede che li infila come gli spiedini il giorno della vigilia di Natale. Sì, vabbè, insomma, stiamo creando poco per volta il nostro zoccolo duro, sì. E quindi dobbiamo salutare il solito giro del Bartabacchi di Caserta. Ah, le ragazze del Bartabacchi di Caserta, sì, va bene. E questo però potrebbero telefonarci 800, no, lasciale stare, perché deve no, ma cioè, sta lì, sta lavorando, amicizia, no. Ma stanno, non devi dare fastidio, stanno lavorando, lasciale lavorare. Luca, ci sei? Eccomi, mi sto avvicinando, sono quasi sotto l'imponente stadio Miazza, ma qui, Luca, al momento non c'è ancora nessun tifoso, la strada è completamente deserta, tanti carabinieri che si stanno chiacchierando tra di loro, forse dentro la camionetta stanno anche giocando a carte, ma non oserei avvicinarmi troppo. Milanisti? Lo dico, sì, probabilmente, anzi forse vedo disinteressati, un paio di napoletani che sono disinteressati da questa giornata, disinteressati da risultati, immagino. Chissà che cosa gli ha detto Guarin, scusate, Juan Jesus all'arbitro calvarese, perché è stato espulso, gli è passato di fianco, sai, da dietro, stai dicendo che c'è un espulso? Così. No, monito, scusa, che spavento, non espulso, cioè... non l'ho monito, gli è passato alle spalle, gli ha detto qualcosa, Calvarese ha fischiato, ha fermato il gioco e ha immediatamente ammonito Juan Jesus. Nel frattempo siamo tornati in quel di Roma, dove Fiorentina sempre sulla Lazio 2-0, siamo al 27esimo con la Fiorentina che pastrugna un po' pallone a centrocampo. Al 349 238 6666, ecco che cominciano già ad arrivare altri messaggi, ovviamente gli interisti si stanno un po' agitando, poi ci sono anche quelli che proprio i pistilli, come si suol dire, attenzione, in questo momento è proprio l'Inter ed è lì, e Guerin, no, Cassano. Mamma mia, cosa ha fatto Cassano, ha tentato la sortita proprio al limite del l'area, ne salta uno, va tirato il tiro, però è stato murato. Ha fatto uno stop clamoroso, un lancio di 40 metri, gli è arrivato sul piede, la palla non ha fatto un centimetro, proprio gli si è incollata al piede, poi è rientrato, ha uccellato il difensore, però sul tiro successivo un altro terzino è riuscito a bloccare la palla. L'Inter sta notevolmente migliorando dopo le 4 pere col Catania. Cioè, questo è il messaggio che ci è arrivato. 4 pere col Catania. Non ha preso di meno. No, aveva finito 3-2 col Catania. Aveva vinto quindi, lui. Esatto, quindi tu eri al massimo di pere. Sì, e aveva vinto tra l'altro l'Inter. Nel frattempo si fa di tutto per cercare di fare almeno un tiro in porta, ma l'Inter non riesce a tirare. I nerazzurri originali sono quelli dell'Atalanta, ci dicono, ci sottolineano. Sempre questi sono i tifosi della Dea, gli amici tifosi bergamaschi dell'Atalanta della Dea. Oh, non ti sfugge nulla. No, è così. Cioè, così. Proprio attento. Ma chissà chi è che può dare a dire una cosa di questo genere, no? Cioè, c'è il tifoso dell'Atalanta. 349-238-6666 invece per avere per poter mandarci gli sms, ma 800-24-0024 per gli interisti coraggiosi, esatto. Che poi di questo si tratta. Luca? Sarà arrivato, Luca? No, anche perché gli abbiamo detto, forse Luca ha capito male, nel senso che noi gli abbiamo detto vai allo stadio Meazza di San Siro. I tifosi nerazzurri la situazione è uguale a prima. Oh. Volevo fare comunque dare una nota meteorologica, non so se l'avete detto, che qui si sta giocando regolarmente, non piove rispetto a Roma, per cui la partita è valida. È valida. No, ma questo l'abbiamo detto che cioè, la partita è valida, anche questa, cioè voglio dire. Comunque dall'interno sento soltanto boati, sì, qui mi sa che per l'Inter si sta mettendo maluccio. Tu sai, no? Il risultato stai ascoltando dai vai su Radio 24, quindi sai sicuramente il risultato che è 0-1. Bologna sta guidando 1-0. Bravo, esatto. Tra l'altro questa sera la curva nord dell'Inter ha esposto uno striscione, fate fare un provino anche noi, magari uno buono lo trovate, di certo è interista. Vabbè, pensa un po' che bello. Nel frattempo andiamo col traffico, stai lì Luca, non andar via. Dai e vai. Strade in diretta. Circolazione scorrevole sulla rete autostradale, ma prudenza per il maltempo, piogge sparse su gran parte d'Italia e ci sono tratti allagati sulla 14 Adriatica in uscita a Pesaro. Attenzione poi alla nebbia tra Piemonte e Bassa Lombardia, un gentile ascoltatore ci informa che la visibilità è scarsa sulla 21 Torino-Piacenza. Ed è stata chiusa poco fa per lavori notturni la 4 Torino-Milano tra gli svincoli di Novara Est e Greggio in direzione Torino. Infine in città Roma traffico bloccato all'interno della galleria Giovanni XXIII per un incidente a catena tra via della Pineta Sacchetti e via Mario Fani in direzione Salaria. È tutto, noi torniamo tra mezz'ora. Dai e vai, non è solo calcio. È solo un gioco, ma... Non mi dire così, per favore, è la cosa peggiore, la più stupida che uno potrebbe dire. Perché mi sembra evidente che non sia soltanto un gioco. Sì, insomma, se lo fosse, pensi forse che me ne fregherebbe così tanto? Eh? I need a home, I need a home to feel safe and secure. I need a family to feel at home. My heart is finally at peace. I need a man. Raffaele, pronto? Sì. Ciao, da dove? Buonasera, chiamo dalla provincia di Napoli. Bene, tifoso allora. Di? Io, a dire la verità, sono tifoso della Roma. Ah, proprio. Però... Esatto. E vuoi parlare dell'Inter? No, volevo dire dell'Inter l'altra sera così. Non pensate che il male dell'Inter sia il presidente Moratti? Che sia solo un gran tifoso e diciamo non prenda le cose in maniera molto molto razionale, reagisce solamente da tifoso e poi il fatto che abbia acquistato Cassano per me non è che sia stato un ottimo affare, perché Cassano francamente farà qualche altra cazzonata, metterà in subbuglio. Vabbè, insomma, tu non ti fidi non ti fidi di Moratti, questo è il concetto. Quindi esoneriamo lui? Penso che sia troppo tifoso e poi vi chiedo scusa, volevo sapere altre due curiosità. Cosa ne pensate dell'uomo corso dopo la cacciata di Zeman, di questo nuovo allenatore, se poterà fare bene anche l'anno prossimo? Andrea Zoli. Sì, e poi volevo una curiosità, uno di voi si chiama Gattuso di cognome? Ma così dicono, però non è ancora confermato, dobbiamo adesso ci informiamo. Non è parente, te lo diciamo subito. No, no, perché io so già che dopo un attimo qua diventa ma è tutto magna magna, anche Radio 24, sì. Amico di Gattuso. Anche di se non si conosco. Fossi stato parente sarei massaggiatore del Sion in questo momento. Tra le altre cose. Ecco. Cioè, senti, grazie, ciao Raffaele. No, ecco, ti rispondiamo per radio, diciamo che... Vai. Questa cosa di Moratti, anche Andreazzoli voglio il parere. Io voglio il parere di Andreazzoli, non me ne frega niente di Moratti. Dammi il parere su Andreazzoli. Ma che non so chi è. No, voglio dire, so chi è, ma però sembra come dire, adesso. Tra l'altro si è anche candidato lui, ha detto, ho fatto talmente bene che sono già candidato per il prossimo anno. Però questa storia qua di Moratti a me fa impazzire. Cioè, voglio dire, è uno che ha messo tanti soldi per tantissimi anni, riesce a fare il triplete, adesso sta cercando di recuperare qualcosetta qua e là, e ha recuperato, diciamo. E gli diamo addosso. E adesso gli diamo addosso perché l'Inter fa male. Questo è un paese che non ha gratitudine, allora, perché questo è un paese che non ha memoria storica, questo è un Inter che si sta beccando la seconda pera, tra le altre cose, questo non è bello, tra virgolette. Miracolo di Carrizzo su calcio d'angolo di Diamanti, un colpo di testa di Crin dalla difesa, colpo di testa di Crin praticamente isolato perché Ranocchia non è riuscito a difendere su Crin, si mette le mani nei capelli, la palla tocca per terra, stava per finire sotto la traversa, poi Carrizzo la mette in calcio d'angolo. Comunque grande Bologna che sta attaccando in questo momento. Se mi fai parlare, volevo dire delle cose ancora su Moratti, ma se non te ne frega niente. Dimmi. È che ho guardato un attimo il display dell'orario, c'era 22-22-22. Quindi Moratti? C'è qualcuno che ti pensa? Pensa? Ma no, che c'entra Moratti? Ma non c'entra. Vabbè, tu non sei romantico, vabbè, cosa ti posso fare? Purtroppo sei soltanto Doriano, non so cosa fare. Ma 11-11-11? Anche quello, certo. Soltanto 4 volte al giorno. 2:22 al mattino, di notte, 4:44, insomma. Sì, 3:33, quelle cose lì. C'è qualcuno che ti pensa e ti ama anche un po'. Pure? No? Sì, ecco, non so però se in radio funziona questa cosa. Moratti, allora sì, si può anche cacciare via Moratti, ma mi sembra veramente una roba. Non è ancora all'ordine del giorno questo tema, no? Perché? Perché il problema è sempre chi che mette al posto di Moratti, perché bisogna poi mettere qualcuno tanto arriverà qualche scelta con soldi, altrettanti soldi per poter... ci sono i cinesi. I cinesi adesso non c'hanno una lira. Moratti sono una bufala. Sono un mezzo bluff. Ha detto che in realtà sembrava, ma che orrore. Vabbè, tanto arriva o qualche petroliere russo oppure arriva qualche sceicco. Vabbè, però parliamo di calcio giocato, di calcio vero. Di calcio bailato. Prima hai dato una definizione che mi ha sempre accompagnato nella mia gioventù, è accompagnato dalla gioventù di tantissimi giocatori di calcio. Stai parlando di Juve al parroco? È la viva il parroco e noi non possiamo che dire viva il parroco in questo caso perché abbiamo Don Alberto Ancelotti e dico un nome e una garanzia tra l'altro. L'hai lanciato male perché dovevamo lanciare dicendo finalmente una presenza. Io non voglio milantare cose che non abbiamo, potevamo lanciare abbiamo Ancelotti al telefono, invece abbiamo Don Alberto Ancelotti. Abbiamo Ancelotti al telefono. Nazionale dei sacerdoti di calcio a 5, pronto? Pronto, buonasera. Don Alberto, buonasera. Che squadra tiene Don Alberto? Milan. Quindi rende felice il nostro Roberto Scaltriti al di là del vetro che ha alzato le braccia come se fosse il vero Ancelotti. Per capire le dichiarazioni di Balotelli, io sono venuto qua per vincere, in qualche modo anche lei pensa che il Milan possa fare qualche cosa di intelligente in questo momento, tipo andare a vincere lo scudetto in questa fase? Direi. In questa fase è un po' difficile perché i punti sono tanti dalla Juve, in passato ci sono state delle rimonte sensazionali, tipo lo scudetto di Zaccheroni, bisogna anche sta parlando dello scudetto del Milan, passato alla storia, tra l'altro lo scudetto di Zaccheroni con una delle squadre più ridicole del Milan, cioè nel senso che non aveva proprio dei grandissimi campioni, no? Ed è riuscito comunque a vincere. altri obiettivi, altre mire, quelle certo. Certo. Senta Don Alberto, allora Balotelli ha detto io sono venuto qua per vincere, lei ci crede? E uso il termine crede non a caso. In una squadra bisogna sempre credere dal punto di vista calcistico, perché dà la forza per ottenere anche i risultati, altrimenti non hanno le motivazioni, non hanno la voglia di vincere, che è fondamentale. Nazionale Sacerdoti Calcio a 5, ci racconta qualcosa, perché noi veramente siamo un po', lo ammettiamo, siamo stati un po' sprovveduti, potremmo soltanto raccontare quello che abbiamo di fronte a noi, cioè un articolo che ci racconta qualcosa, ma ci volevamo sapere dalle sue parole che cos'è, cioè Nazionale Sacerdoti Calcio a 5, intanto vuol dire che c'è un campionato? C'è stato un campionato europeo di calcio a 5 per sacerdoti che si è svolto la settimana scorsa in Slovenia, il settimo campionato, siamo già giunti, noi è il primo anno che partecipiamo, noi di per sé non abbiamo un campionato in Italia. Infatti c'è il problema della selezione, come la fate la selezione? Noi siamo un'associazione di sacerdoti che comprende 140-150 sacerdoti di tutta Italia. E la selezione, se si può chiamare così, è fatta in base alla disponibilità dei sacerdoti, e il nostro allenatore e presidente è lui che tiene i contatti e chiama, e con quelli disponibili si parte e si fanno le varie iniziative. Noi non abbiamo un campionato, ma giochiamo partite di beneficenza in giro per l'Italia. Quindi c'è la possibilità di vedere le doti tecniche, perché sennò... Sì, praticamente è il nostro allenatore che fa in tempo a girare in tutta Italia per poter conoscere i diversi sacerdoti e dopo da lì sentire chi è disponibile. E come sono andati gli europei? Questa è un po' la nota dolente. Ecco, dal punto di vista umano e della fraternità sacerdotale è stata un'esperienza bellissima. Dal punto di vista calcistico siamo stati presi un po' di sorpresa, perché noi, essendo abituati a giocare a partite di beneficenza, abbiamo partecipato con uno spirito molto amichevole, cioè gli altri menavano. Le altre nazionali invece erano agonisticamente molto più combattive di noi, aggressive. Quindi nella sostanza, cerco di tradurla, avete incontrato belle persone ma probabilmente avete preso un sacco di gol. No, abbiamo fatto anche abbastanza, sì, però... però siamo arrivati undicesimi, insomma. Undicesimi su? Su 13. Ah, ho capito, vabbè, lo dice anche con un tono adatto alla bisogna, come si suol dire in questo caso, perché la situazione... Undicesimi è su 13. Eh? E sì. Chi sono il dodicesimo e il tredicesimo, solo per curiosità, così sacerdotale? Dodicesima è arrivata l'Ucraina e tredicesimo il Montenegro, mentre invece ha vinto come la Polonia. Sono molto più organizzati, loro hanno un campionato tra sacerdoti durante l'anno, e perciò è tutto un altro, sì, tutta un'altra storia, vabbè, insomma, tutto questo. Poi loro sono abituati a giocare al coperto all'interno dei palazzetti, noi facciamo più esperienze all'aperto dove ci chiamano per le partite di beneficenza. In particolare stiamo portando avanti un progetto, un'esperienza molto bella che abbiamo fatto a Betlemme, abbiamo giocato contro la nazionale palestinese, da lì è partita l'iniziativa di costruire un campo per la scuola calcio della Fondazione Giovanni Paolo II lì a Betlemme, che raccoglie bambini sia cristiani che musulmani. Ecco. Senta, in una foto che abbiamo visto in questo articolo vediamo che voi avete la stessa divisa della nazionale maggiore, vero? Abbiamo avuto l'appoggio anche del signor Abete, che ci ha permesso di utilizzare una volta questa maglia. Ah. Dopo abbiamo anche altre maglie, però una, anche se non è proprio della nazionale, ma azzurra nostra, abbiamo anche quella, perché quando giochiamo in queste occasioni qua, insomma, la maglia azzurra dà la carica. Prossimi appuntamenti? Appuntamenti a livello così internazionale non ne abbiamo. Ma abbiamo anche appuntamenti di amichevoli. Di amichevoli. E, un amichevole che è legata anche alla fiera della Coinè di Vicenza, sarà il 15 di aprile, e giocheremo a Vicenza, sempre anche qua, partite pro, vabbè, l'esperienza, pro il progetto di Betlemme del campo. Sì, ecco, volevo soltanto appunto su Betlemme, l'ultima parola, volevo soltanto sapere, calcio a 5, il campo è per il calcio a 5 oppure per un campo di calcio, quello grande, quello da 11? No, noi di solito giochiamo su quello a 11. No, ma il campo che volete costruire a Betlemme. Ah, scusa, è un campo a 7 in erba sintetica. In mezzo proprio. Grazie, a risentirci, una buona grazie, serata. Noi andiamo intanto a pubblicità. Dai e vai. Il domani comincia oggi. Classe B, mia per due anni con Drive Pass Leasing. 23 canoni da 249 euro al mese e 4.200 euro di anticipo, furto e incendio inclusi. E poi posso restituirla. Provala anche tu, sabato 16 marzo. TAN fisso 5,99, TAEG 7,74. Offerta valida dal 7 al 31 marzo, soggetta a restrizioni e a disponibilità limitata. Salvo approvazione Mercedes-Benz Financial Services Italia. Fogli informativi in concessionaria. Info mercedesbenz.it. Tutti consigliano di diversificare gli investimenti. Il fondo UBS Multi Asset Income lo fa davvero, investendo in asset cui forse non avete ancora pensato, con l'obiettivo di generare reddito e prendersi cura del vostro capitale. UBS Multi Asset Income, il pezzo mancante nel vostro portafoglio, con la gestione attiva di UBS Global Asset Management. Per informazioni ubs.com/mai. Comunicazione pubblicitaria. Prima dell'adesione, leggere il prospetto informativo. Se il tuo lavoro ha bisogno di uno scatto di qualità, affidati a quella più alta in circolazione. Scopri il Renault Trafic e Renault Master con clima, radio CD MP3 e viva voce Bluetooth da 14.000 euro. Oppure scegli tutta la serenità di 5 anni di manutenzione e di assicurazione furto e incendio con l'esclusivo leasing 0,99 da 239 euro al mese. Salvo approvazione fin Renault, fogli informativi in tutte le concessionarie aderenti. Veicoli commerciali Renault, numeri 1 in Europa dal 1998. Dai e vai, non è solo calcio. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Perché quanto c'è di recupero? Stasera non si sa ancora, è scaduto il 45esimo a pochi secondi, mentre a Roma sono 3 minuti di recupero. Tensione, Moratti, diciamo, è lì, è teso, sta cercando di capire se è quello il posto adatto per la sua per vita, lui? Per lui in questo caso. 4 minuti di recupero stasera. Tensioni lì, Luca, c'è silenzio intorno a te. Luca Cancellara, davanti a San Siro. Pronto? Eccomi, sì, per ora c'è ancora tanto silenzio, anche in questo momento c'è un boato dall'interno di San Siro, forse un gol mancato degli aerozzurri. Sì, sì, ne hanno mancati 6 o 7 in questo caso, cioè diciamo arrembaggio Inter, diciamolo, questo però è innegabile, ma non porta a casa niente. Ci sono i primi tifosi che stanno abbandonando lo stadio. Vai. Buonasera, salve, siamo in diretta a Radio 24, insoddisfatti da quest'Inter, inguardabile. Terribilmente inguardabile, sì. Così bisogna cambiare per... Che sono di Gazzetta? L'allenatore, il presidente, i giocatori... E Schelotto, Ecco, non so se avete capito, Schelotto che era il re della patria fino a un paio di settimane fa. Certo. E adesso? E adesso invece è il... Moratti lo teniamo, deve andare, diamo il cambio, mettiamo altri soldi. Sono interista però. Perché tu sei milanista. Ah, vabbè, non vale. Ma cosa ci fa lì? No. Niente, allora Luca, quello sa. Saltalo quello. Saltalo quello e vediamo se al posto. Diciamo al posto di Stramaccioni, chi vogliamo? No, arrivederci. al posto di Sarmazzoni chi prendiamo? Allora io metterei, io vengo dall'Inter però marketing deciso fatatore, metterei Beppe Baresi in questo momento, quindi una prima squadra, una famiglia, poi dopo vediamo. Moratti ancora ha senso che rimanga? Ma direi di sì, non va lui in campo. Certo, poi sì, dicono tante cose, però è secondo me proprio la questione dell'organizzazione del gioco e Tramaccioni, che va bene per la primavera, non va bene per una squadra come l'Inter. Chiedel, Moratti, Cassano? Ma sai, Cassano è ingestibile, e quindi questa è la dimostrazione di quello che lui è. Non credo che rimarrà, a mio avviso, alla fine dell'anno, poi vedremo. Ah, cioè proprio adesso è diventato un carciofo Cassano, cioè capito? Di botto è diventato un carciofo, Luca. Ci senti? Di botto Schelotto e Cassano sono da sostituire. Sì, ma mentre su Schelotto si poteva. Attenzione, quasi gol, direbbe qualcuno, un vero radiocronista. Esatto, però grande paraggio. Esatto, colpo di testa in mezzo all'area, parata di Curci proprio sull'angolino. Ormai c'è solo Inter in attacco, si gioca soltanto nella metà campo del Bologna. Bologna che però resiste eroicamente. E ormai è finita. No, mancano 4 minuti, scusa, 48. No, manca un minuto ancora. Un minuto. Ah, no. Un minuto. Siamo al 48esimo e 10 secondi, sì. 4 minuti di recupero, si arriverà al 49esimo, però ormai la palla è a centrocampo, proprio nei piedi Luca, di un giocatore del Bologna. Stanno uscendo ormai a frotte i tifosi dell'Inter, se ne stanno andando? Sì, sono qui, è un Inter inguardabile questa. Sì, una ricetta per migliorare le sorti della squadra? Cambiarli tutti. Ah, ho capito. Schelotto e Cassano dicono questa sera. Sicuramente Schelotto. Il presidente può rimanere, può, deve cambiare il mister, deve buttare a centro un po' di soldi, esatto. Ancora? Cioè. Come se lo bastasse, ti fossi sempre altri soldi e Massimo Moratti. Scusa Luca, non so se hai notato, sembra la versione grillina degli interisti, cioè via tutti, altri soldi. Hanno rovinato l'Inter, da Moratti in giù in questo caso. Vabbè dai, senti Luca, ti lasciamo un attimo, anzi torneremo ovviamente a te più tardi, perché abbiamo invece un personaggio, una persona che ci interessa capire che cosa sta facendo, perché ci dicono che sta organizzando un giro del mondo in bicicletta. E ci abbiamo al telefono Paola Gianotti. Pronto Paola? Pronto. Ciao Paola, come stai? Tutto bene? Bene, sì, assolutamente. Allora, ma è vero o è falso? No, è vero. Sto cercando il mio giro del mondo in bici. Cioè, tu a un certo punto ti sei alzato un mattino e hai detto, ma qua mi annoio, quindi prendo e vado a fare un giro per il mondo. Insomma, esatto, cosa? Un giro da 30.000 chilometri. 30.000 chilometri, ecco, sì. Tu ti stai allenando come minimo? Sì, io mi sto allenando parecchio tutti i giorni, un preparatore atletico che mi segue e faccio parecchie ore ogni giorno, bici, piscina, palestra, tutto quello che più ne ha più ne metta. Senti, ma che giro farai? Cioè, parti da dove? Parto da Ivrea, dove abito, certo. E vado verso Nord Europa e poi faccio tutto il coast to coast in America, per poi passare in Australia, Nuova Zelanda e Asia, quindi faccio Laos, Vietnam, Thailandia, India, Oman e finisco in Sudafrica. Ok, giro del mondo una volta si diceva 80 giorni, ma noi pensiamo che sia un po' più lungo, mi sa. Esatto, è un po' più lungo. Quanto sì, ci metti? Sì. Spero di metterci 151 giorni per tentare di battere il Guinness. Attualmente l'ha fatto solo una ragazza al mondo che si chiama Giuliana Buring ed è greca e ci ha messo 152 giorni, quindi io spero di portare a casa un record italiano. Cioè, ma scusa, ma quindi non puoi neanche, non so, andarti a vedere un museo, non puoi vederti niente. Cioè. No, deve far veloce. Si pedala. Si pedala e basta? Sì. Si pedala e basta? Con ogni condizione del tempo, senti, esatto. Voglio vedere se sei preparata. Mettiamo il caso che buchi in una strada completamente isolata. Chiama l'ammiraglia e lui cambia la bicicletta. No, che chiama l'ammiraglia? Ma non c'è l'ammiraglia? Non c'è l'ammiraglia. Cioè, come fai a capire dov'è il buco nella camera d'aria? È un attimo, lo so anch'io. Esatto. Innanzitutto una scorta, niente male, di camere d'aria dietro, visto che ho Michelin che mi supporta e quindi... Ah, quindi abbiamo... ecco, cominciamo, la prima cosa da fare per fare il giro del mondo in bicicletta è avere degli sponsor. Esatto, avere degli sponsor, anche se adesso ne ho qualcuno, ma sono ancora alla ricerca, quindi... Ovviamente tutti quelli che mi riescono a supportare sono i benvenuti, però una bit. Hai detto supportare, giusto? Sì, sì. Supportare, supportare, sì, ecco. Supportare, ecco, esatto. In questo caso. E sì, quindi abbiamo detto, tu intanto gli sponsor che stai cercando, bicicletta ovviamente. Bicicletta, una Cinelli che me la stanno progettando. Infatti, ti fanno una bicicletta su misura su di te? Su misura, esatto, sì. Ah. Una bicicletta nuova uscita quest'anno che si chiama Hobo, che vuol dire vagabondo. Ma cos'ha di particolare? Assolutamente in tema con il mio viaggio. Adesso il particolare è che la fanno in parte in carbonio, in parte in acciaio, e cercheranno di cercherà di essere parecchio confortevole e anche leggera al contempo, perché dovrò starci dietro sopra più o meno 10 ore. E soprattutto questa piccola modifica che pedala da sola, sì, insomma, questa, esatto, cosa qui non è male come idea, secondo me. Bella idea, brava, complimenti, esatto, mi sembra interessante questo passaggio, insomma. Ecco, ecco. E poi che cosa succede? Cioè, nel senso che, allora, abbiamo detto bicicletta come primo sponsor, poi abbiamo detto un le po' di gomme. Le gomme, in questo le caso gomme, e poi ci avrei tutte quelle, non so, prodotti da mangiare, da bere, queste cose qua. Sì, integratori, prodotti specifici, quindi anche se poi dovrò adattarmi a quello che viene, perché attenzione agli integratori, perché poi dopo magari ti invalidano poi il record. No, tutto naturale, tutto naturale. Ah, sicura? Niente di chimico, assolutamente. Ah, sì. Un tigre nel motore, sai com'è, no? Quella roba lì. Cioè, senti, qual è il timore che hai maggiore all'inizio? Cioè, quando uno immagina stare in giro 5 mesi in bicicletta, qual è il timore maggiore che hai? La solitudine. Pedalare 10 ore al giorno da sola mi spaventa. Ma ce l'hai un auricolare, un cellulare con cui si parla, si racconta, si sente un po' di musica. A proposito, discutiamo un attimo di questo punto qua. Secondo me è interessante, cioè voglio dire, ci avrai da portare dietro una tua playlist di musica, no? In qualche modo. Assolutamente. Che cosa metti lì dentro? Tanto per capire. Però di tutto, da Ligabue agli U2 a Vasco, tutto quello che capita, perché la playlist dovrà essere di 10 ore circa. Cioè non arrivo neanche al Biano io da Ivrea, cioè con quella playlist lì. Vabbè, comunque 10 ore di playlist fai? Beh, 10 ore di playlist su 150 giorni, sai quante volte l'hai ascoltata? 150 volte, perché devi pedalare 10 ore. Ma figurati, va, figurati. Vabbè, comunque random, poi magari non prendi la stessa sequenza, esatto, in questo caso, e quindi riesci in qualche modo. Allora, abbiamo detto, tu partirai quando? Partirò ad ottobre. Ad ottobre. Esatto. E quindi, diciamo, primi di ottobre, qualcosa del genere. Primi di ottobre. Scusa, sì, la data della partenza è stata scelta per arrivare in determinate zone del mondo quando magari non ci sono i monsoni, queste cose qua? O è No, non è casuale. È stata scelta appositamente perché non devo cercare di avere sempre il bel tempo il più possibile, quindi... soprattutto nelle zone asiatiche, non trovare i monsoni. Cioè, quindi parti a ottobre, vai su verso il nord, poi vai in America. Che non fa troppo freddo? Che non fa troppo freddo. Tutto non fa ancora troppo freddo, e poi passo dall'altra parte. Quindi insomma, adesso non fa troppo freddo a ottobre, novembre, dove va a finire? In Scandinavia? In Nord Europa, poi passa l'Atlantico e arriva negli Stati Uniti. Vabbè, ho capito. Sì, e poi lì cost to cost è un attimo, perché è sempre dritta, cioè vai sempre dritta. Senti, ti si può seguire da qualche parte? Cioè, non intendo in bicicletta, intendo dire virtualmente online. Assolutamente sì, al momento su Facebook, che è www.keepbrave. Keep Brave è il nome della mia impresa, che vuol dire brave. Tieni duro. Ah, ok. Tieni duro sempre. Sì. E poi ci sarà, tra poco sarà online il sito web. E da lì si potranno seguire tutti gli spostamenti, anche perché avrò un GPS. Bello, ma vedi, ma dai, bello, figurati, guarda, ormai neanche i navigatori solitari sono solitari, scusa, cioè, voglio dire, ma cioè, adesso ti lamenti. No, più che altro, ma scusa, di notte cosa fai? In tenda? No, cioè, di cosa notte, fai? Tenda o camper? Tenda o camper? Esatto. Ma hai già le tappe, quindi già ho studiate. Già tutte le tappe pianificate. Sì. Senti, Paola, è stato un piacere risentirti. Ovviamente noi ti seguiremo nel limite del possibile e cercheremo di in qualche modo tenerti compagnia. Non so se riusciremo, perché magari sai, in queste case. Tu tifi per qualche squadra in particolare? No, nessuna. Perfetto. Brava, quindi, Paola. Quindi è del tutto inutile che ti seguiamo noi. Va bene. Ciao, grazie Paola, è stato bello. Ciao. Grazie. No, perché ciao. Bisogna essere essere sinceri. No, no, è vero, è stata sincera, non ti capisco nessuno. Tanto figurati, diciamo i risultati? Eh beh, siamo qua apposta. Bologna ha vinto 1-0 a San Siro con l'Inter, mentre la Fiorentina ha vinto 2-0 all'Olimpico di Roma con la Lazio. Ecco, diamo anche vuoi anche i marcatori? Sì, siamo nel fantacalcio. Gilardino ha segnato su assist di Perez per quanto riguarda il Bologna, mentre la Fiorentina il gol di Jovetic su assist di Ljajic, e poi Ljajic su punizione, una punizione che si è infilata alla sinistra di Marchetti. Stramaccione è ancora lì. Aspetta, possiamo magari sentirlo in questo caso, no? Che magari avrà un sacco di cose da dirci. Nel frattempo noi andiamo col traffico. Dai e vai. Strade in diretta. Il traffico è scarso in questo momento sulla rete autostradale, ma prudenza per il maltempo, piogge sparse su gran parte d'Italia e ci sono tratti allagati sulla 14 Adriatica in uscita a Pesaro. Attenzione poi alla nebbia tra Piemonte e Bassa Lombardia, visibilità scarsa in particolare sulla 21 Torino-Piacenza. Ricordiamo che è chiusa per lavori notturni la 4 Torino-Milano tra gli svincoli di Novara Est e Greggio in direzione di Torino. La riapertura è prevista per le 6 di domani mattina. E infine vi anticipiamo una notizia: domani servizio ferroviario a rischio in Emilia-Romagna per lo sciopero aziendale di 24 ore del personale Tiper, fasce di servizio garantite dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. È tutto, a più tardi. Dai e vai. Non è solo calcio. I bet you wondered how I knew about your plans to make me blue with some other guy you knew before. Between the two of us guys, you know I love you more. It took me by surprise, I must say. Cala e insomma, anche cola secondo sì, me sì, nel senso, ormai e si sta sciogliendo in maniera sì. incredibile, perché adesso bisogna dire adesso strama adesso, ne sta perdendo troppe, diciamocelo chiaramente. Guarda, nelle ultime 6 partite ne ha perse 3 più quelle di Europa League col Tottenham, quindi nelle ultime 7 partite ne ha perse 4. Vedi un po' tu. Adesso, tutti è una media da retrocessione. Gli vogliamo bene, tutti quanti simpatico, è veramente giovane e questo ci fa tanto tanto piacere perché è largo i giovani, però diciamocelo, cioè, dopodiché qualcuno qui direttamente da questi microfoni ha detto ci vuole la gavetta anche per loro in qualche modo. Sì, ricordiamolo, il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, Renzo Olivieri, settimana scorsa ai nostri microfoni ha detto che è necessario comunque riflettere anche su certe carriere eccessivamente veloci degli allenatori e far passare un tempo di gavetta, di panchina per riuscire a formarsi. Andiamo con Luca Cancellara, pronto Luca? Eccomi qui, tifosi interisti a dir poco incazzati ieri, chiedono al presidente Moratti di aprire il portafoglio e di rimaneggiare nuovamente la squadra. Andiamo sul concreto, diamo la fiducia a Stramaccioni o no? Allora, diamo la fiducia a Stramaccioni o no? Ma no, direi di no. Buona, chi prendiamo al suo posto? Simeone. Simeone. Simeone l'argentino. Simeone. È loco Simeone. Esatto. Ok, andiamo, via, veloce, andiamo a cercarne altri, via. Pronti? L'Inter, Fermazioni secondari. Sono inglese. Inglese? Yeah. Inter? No, good Inter. No, ok, vedi. grazie Luca per questa intervista. Stramaccioni, se devi andare, ciao, per forza. Basta. Ci prendiamo al suo posto. Che cazzo ne so, io sono milanista. Ah, vabbè, ma scusa, ma non di milanista? Ma dei milanisti non possono stare a casa? Ma cioè, non lo so io. Sono più milanisti che interisti. Luca, però Stramaccioni, se devi andare, devo scappare. Stramaccioni, se devi andare, dobbiamo cambiare allenatore. Sì, è vero, proprio uno schifo. Ci prendiamo al suo posto? Non lo so, dai, vedremo. Uno migliore. Ah, ma certo, uno peggiore sarebbe imbarazzante, uno peggiore. Giocatore, devo cambiare qualcuno. Qualcuno che si fa schilotto e cacciano via. Andiamoli tutti, è meglio, una squadra così. Ciao. Ecco. Cambiamoli, insomma, non ci sono in realtà delle ricette precise, è meglio cambiare. Allora, in loco. Tutti quanti, tifosi interisti. Tutti quanti? è un po' lo, come vedete, un po' come lo stile un po' di questa fase del paese, insomma. Cioè si bisogna cambiare tutto in blocco, come ci sono poche idee, mi sembra. Sì, però, suggerimenti neanche da questo punto di vista. Vabbè, tu adesso sei lì e stai bighellonando, mentre invece il popolo interista sta tornando triste l'MLM 4-4 a casa. Però noi a questo punto ti lasciamo, Luca, ti lasciamo andare anche a casa, anche a te, perché abbiamo dall'altra parte invece il nostro Mauro Peroni, che del club della Fiorentina, che è a Roma. Pronto, Mauro? Sì, pronto. Oh, hai visto che l'abbiamo portato fortuna? Davvero, guarda, la partita non c'è stato partita, via. Addirittura, adesso dai, esageriamo. Siamo obiettivi, io sono obiettivo, sì. Ma come fai stato partita? Come fai a essere obiettivo, Mauro? Sei un tifoso viola dalla nascita, del sono, coordinamento, certo, non puoi essere obiettivo. Ma sono obiettivo io, quando gioca sì. Male io l'ammetto. Sì, Vabbè. Stasera ha giocato bene, una bella partita. Allora passi tanto tempo. Vabbè, no, dico, allora, quindi stasera ti è piaciuta la squadra, insomma? Molto. Chi ti è piaciuto di più? Finalmente Jovetic è andato al gol, no? Sì, Jovetic, Ljajic ha giocato bene, Borja Valero. Hanno giocato bene tutti stasera. Si presenta bene, insomma, sì. Il tutto. Senti, in questo momento voi siete a 3 punti dal Milan e a 5 punti dal Napoli. Quindi... Sì, esatto. Quindi? Quindi bisogna tirare a vincere. Sì, per arrivare dove però? Cosa vuoi, tu ti accontenteresti di... Diciamo arrivare terzi. Terzi, Quindi la Champions, Io ci spero. Ci speri, non lo dici, sì. Perché ovviamente giustamente sei scaramantico, ma sotto sotto la Champions non ti farebbe schifo, insomma. No. E poi abbiamo anche... Scusa, ti posso fare una domanda io? No, scusa, poi il prossimo anno c'è Peppino, scusa, c'è Rossi. Bravo. Butta via, cioè, hai capito? No, il prossimo anno bella squadra, sono riuscito a perdere pezzi, Sì, speriamo, guarda. Ma tu hai paura di chi? Chi è che se ne va via? Jovetic andrà via? Io, se si è in Champions, penso di no. Ah, se si va in Champions, secondo te Jovetic resta alla Fiorentina? Sì. Lo puoi scrivere, guarda. Lo sto scrivendo. Ti chiamiamo, appena venduto ti chiamiamo. Senti, però. Mauro, la prossima è una passeggiata, no? Domenica contro il Genoa, figurati, una squadra in crisi. Passeggiate, ti ha visto il Pescare che è successo, passeggiate non ce n'è. Esatto, vabbè. Senti, ma adesso a che ora uscite? Siete già usciti da lì? No, siamo ancora dentro. Per quanto ne avete ancora? Troverà un'altra mezz'oretta. Un'altra mezz'oretta. E cosa si fa in questa mezz'oretta di solito? A parte... Ora si sta mangiando una pizzettina qui. Ancora? Cioè, la mangiate sempre? Cioè, non ho capito. Cioè, che trasferta è? Cioè, si mangia sempre. Dopo aver tirato su gli striscioni, poi dopo cosa c'avete da fare lì? Nulla, già. Si sta commentando la partita, stanno bevendo. Ci si incontra con gli altri, insomma, gente che non si è da altre città. Chi è che c'è? Posso fare io una domanda? Prova. Domanda qua. Interista, sì. No, adesso non iniziamo con le offese, perché noi non ti abbiamo offeso, quindi non iniziamo con le offese, ok? Non ti voglio offendere. No. Non è proprio così, no? Non siamo né uno né l'altro, come si suol dire. Non tifiamo nessuna delle due squadre. Diciamolo, perché dobbiamo avere il coraggio delle nostre affermazioni. Io sono un tifoso blu cerchiato. Oh. Mi fa piacere, guarda. Adesso tocca a quell'altro dirtelo. Io sono un tifoso bianco-nero. Ciao, lì. Adesso voglio vedere quale delle squadre vuoi beccare. No, è uguale, dai. No, voglio dire, vabbè, dai. Senti, intanto ti ringraziamo e saluto a tutti. Ovviamente ne avete ancora per un po'. Ci sentiremo presto, grazie, ciao. Grazie a te, ciao. Ciao, Mauro. Mauro Peroni, del coordinamento dei Viola Club, in questo momento nella curva sud. No, nella curva sud. Sì. Io vorrei però delle parole... No, ogni tanto di comprensione di questa no. sagge pacate, sì. Quindi questa roba qua non offendere, guarda, cerchiamo di avere un minimo, cioè, hai ragione, non adeguiamoci al clima, hai ragione, no? Hai ragione. Truculento, no, ma scusa, ma io quando mi danno dell'interesse del minimalista non ce la faccio dai più. Fuori d'altra parte, no? Pensa appunto, se è dato del Genoa. No. Torniamo però in questo caso, c'è Stankovic che è tristissimo, Stankovic, perché si era fatto male. Ci stava ascoltando Andrea Stramaccioni, sentiamo anche il suo parere su questa sconfitta interista con Massimiliano Nebuloni. Buonasera. Buonasera. Sì, per l'ennesima volta l'Europa League colpisce, perché è la sesta volta che l'Inter dopo una partita di Europa League perde, poi la domenica hai la percezione dopo questa sconfitta, questa prestazione, che forse questa squadra più di così non possa e non riesca a dare. Beh, strano. Ma io spero proprio di no, perché comunque mancano ancora 10 partite. Sicuramente noi siamo in un momento in cui sicuramente non ci riesce, non ci riescono le cose come vorremmo. Vabbè, questo è oggettivo. Si è visto soprattutto nel primo tempo. Dove quante volte abbiamo finito la nostra trasmissione serale con Stramaccioni che ammorba la vita? Cioè, in questo caso, cioè, dici che è legato? Troppo, troppo secondo me. Non aver preso gol nel primo tempo, dove Bologna probabilmente lo meritava di farlo. Paradossalmente, il secondo tempo in cui l'Inter, secondo me, ha cominciato. Io mi porto avanti così. Roberto Scaltritti, così al mixer, così. Mentre c'è Stramaccioni che c'ha di dire delle sue. Adesso se lo campiona se lo mette come sonoria sul cellulare, secondo me. Giorgio De Luca, Giorgio De Luca, assistente, assistente per quello che conta, poi alla fine lo teniamo anche sicuramente lì. In un periodo non positivo per noi. No, però io sono convinto. Non ci sfugge nulla, vedo anche altre squadre che hanno avuto dei problemi. Da chi? Quali? In Napoli, in cui qualsiasi squadra ti può mettere in difficoltà. Penso che tranne la Juventus, che è staccata, qualsiasi squadra può metterti in grande difficoltà e toglierti i punti. Quindi in questo momento bisogna rapidamente. Ma non è mal comune mezzo gaudio il calcio. Mancano 10 partite. Ma però intanto scusa, se tu togli la Juventus, tanto il campionato è suo, cioè dice lui, non è che lo dico io. Sia ben chiaro. No, l'hai detto tu. No, l'ha detto lui. Io sto cercando di tradurre quello che sta cercando di dire lui, però non è che lo dico io in questo passaggio. L'ho detto io. Sergio Fertino ha detto la Juve. La Juve, stai parlando di Juve, guarda un po'. Esatto. La Juve, tra l'altro, oggi ha raggiunto la 1400esima vittoria nel girone unico. Dillo bene, dillo bene. 1400. Esatto. No, volevo citare qualche nome. La millesima vittoria nel girone unico della Juve verrà ricordata per il gol di Baggio. Sì. La 1100esima vittoria del girone unico della Juve verrà ricordata per il gol di Del Piero. Sì. La 1200esima verrà ricordata per il gol di Conte. Sì. La 1300esima verrà ricordata per il gol di Trezeguet. La 1400esima per il gol di Giaccherini. Cosa ne sai tu? No, cosa ne sai? Ha segnato lui oggi. Sì, adesso, allora, Trezeguet, chi sarà mai? Là. Poi Del dopo... Piero, Conte, Trezeguet. Cioè, largo ai giovani, ai veramente giovani, capito? No, cioè adesso ti va bene i giovani ovunque, adesso quando arrivano i giovani ti dà fastidio. Tra 10 anni parleremo di Giaccherini. Sì, ho detto che c'è lo zio. Mi vede un po' in difficoltà. Tutto questo può essere riassunto nelle difficoltà che avete di rosa? Perché noi io vi do tanti attenuanti, no? Perché hai tantissimi infortunati. Però zio gioca in casa, scusa. Quando c'è zio Bergomi che intervista Stramaccioni, non gli fa la domanda cattiva. Come cioè, Mauro. No, Luca Cancellara non è stata qui in studio, lo diciamo. Esatto. È stato là a bivaccare davanti allo stadio a cercare un po' di interisti, ma nulla di fatto in tutto questo, insomma. Fa fatica a sentirsi. Qual è la domanda, zio Bergomi? E poi quando è un editoriale. Nel secondo tempo si vede la vera Inter. Bergomi, quando la domanda è più lunga della risposta non va bene. Hanno fatto sempre in relazione alle condizioni della squadra. Ti ripeto, io non, adesso mi sembra anche un'analisi riduttiva. In studio? Luca Gattuso e Sergio Ferentino. Ci ha messo depressione Stramaccioni. Anche Stramaccioni. Ecco, e a seguire dopo Dai e Vai, che torna domenica prossima alle 16.30 alle 22, Möbius di Federico Pedrocchi qui su Radio 24. Sì, però, dai, per tirare sul ritmo. Hai voglia di tirare sul ritmo di Stramaccioni, vabbè. Insomma, interisti di tutto il mondo. Cercate di tirarvi su di morale, noi torneremo prima o poi. Grazie, a risentirci. Credo che nel primo tempo non sia andata tutta l'Inter, poi nel secondo tempo abbiamo rischiato giocando con un assetto più offensivo che sapevamo avrebbe concesso qualcosa. Nell'ultimo allenamento, anzi, Ricky Alvarez era nei convocati, poi è stato tolto perché non potevamo perdere anche lui. Quelli che erano fuori, nessuno poteva fare il quarto a sinistra, soprattutto con i due. Sabato prossimo ci facciamo un giro a Campo dei Fiori. Ma lo sai che sono allergica al polline? parti alla scoperta di Roma e delle altre città italiane. Ricarica il cellulare con l'iScarica nei bar o nelle tabaccherie della rete Lottomatica Servizi e ricevi un buono sconto fino a 30 euro per viaggiare con le frecce di Trenitalia. Offerta soggetta a restrizioni. Regolamento dell'operazione a premi consultabile sul sito lispremia.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Nissan crede che la tecnologia sia veramente innovativa solo quando è per tutti. Scopri Nissan Qashqai 360, il primo della categoria con Around View Monitor. Quattro telecamere con vista dall'alto a 360 gradi per avere tutto sotto controllo. Nissan Qashqai, a marzo il diesel è al prezzo del benzina, a 16.950 euro. Il momento è unico. Offerta soggetta a condizioni. Info su Nissan.it. Nissan, innovation that excites. Tutte le generazioni hanno bisogno delle energie dei giovani per la stabilità, la dignità e la costruzione.